Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Come detto, l'ultima della stagione. Grazie a tutti per la cortese attenzione, grazie a Luca Giulio per la regia. Buone giornate.